Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. La settimana scorsa abbiamo chiuso la prima parte del primo libro di Guerra e Pace e cerchiamo di riprendere un po' le fila del racconto. Il principe Andrei Balkonski conduce la moglie dunque nella tenuta di campagna del padre, prima di partire per la guerra, e la affida alle cure amorevoli della sorella Maria, che è disposta a vedere il lato positivo di ogni difetto della cognata. Ma Andrei confida alla sorella la sua infelicità matrimoniale, di cui anche il padre si rende conto. E con la scena bellissima dell'addio tra padre e figlio si chiude la prima parte, appunto, del primo libro di questo romanzo. La seconda parte, che cominciamo a leggere oggi, inizia con il resoconto delle operazioni militari che prendono avvio nell'ottobre del 1805. Si tratta di operazioni preliminari che implicano uno spostamento di truppe russe nell'Arciducato d'Austria. Ora, la lunghezza delle pur bellissime descrizioni di manovre militari e il poco tempo a nostra disposizione ci costringono a sorvolare un po' su questa seconda parte, ma alcuni frammenti di particolare bellezza sarà opportuno leggerli. Ecco ad esempio come ritroviamo in guerra il principe Andrei Balkonski alle prese con il comandante in capo Kutuzov. Benché non fosse ancora passato molto tempo da quando il principe Andrei aveva lasciato la Russia, pure egli era molto mutato. Nell'espressione del viso, nei movimenti, nell'andatura, quasi non si scorgeva più l'antica affettazione, stanchezza e indolenza. Egli aveva l'aspetto di un uomo che non ha tempo di pensare all'effetto che farà sugli altri ed è occupato di cose piacevoli e interessanti. Kutuzov, che egli aveva già raggiunto in Polonia, lo aveva ricevuto molto affabilmente, promettendogli di non dimenticarlo e distinguendolo subito dagli altri aiutanti di campo, e l'aveva condotto con sé a Vienna, dandogli i più seri incarichi. Da Vienna Kutuzov aveva scritto al suo antico compagno, il padre del principe Andrei. «Vostro figlio, diceva, promette di diventare un ufficiale fuori dell'ordinario per la sua attività, fermezza e capacità d'esecuzione. Mi stimo felice di avere sotto mano un subalterno simile». Nello stato maggiore di Kutuzov, il principe Andrei aveva due reputazioni assolutamente contrarie. Gli uni, la parte minore, riconoscevano nel principe Andrei qualcosa di diverso da se stessi e da tutti gli altri. Si aspettavano da lui grandi successi, lo ascoltavano, lo ammiravano e lo imitavano. E con questi il principe Andrei era semplice e amabile. Gli altri, la maggioranza, non amavano il principe Andrei. Lo ritenevano un uomo orgoglioso, freddo e antipatico. Ma con questa gente il principe aveva saputo prendere un contegno tale che essi lo rispettavano e anzi lo temevano. E arriviamo al momento in cui sopraggiunge nel gabinetto di Kutuzov il generale austriaco Mack con la notizia della disfatta austriaca e della capitolazione di tutta l'armata sotto Ulm. Il principe Andrei era uno di quei rari ufficiali di Stato Maggiore che prendevano grande interesse all'andamento generale della guerra. Vedendo Mack e sentendo i particolari della sua disfatta, egli capì che metà della campagna era perduta. Capì tutta la difficoltà della situazione delle truppe russe e si rappresentò al vivo ciò che attendeva l'esercito e la parte che egli stesso vi avrebbe avuto. Senza volere provava un sentimento di commozione e di gioia al pensiero dell'onta subita dalla presuntuosa Austria e che forse fra una settimana gli sarebbe toccato assistere e partecipare a un cozzo dei russi coi francesi. Ma egli temeva il genio di Bonaparte, che poteva mostrarsi più forte di tutto il valore delle truppe russe e nello stesso tempo non poteva ammettere uno scacco per il suo eroe. Dunque qui le truppe russe hanno passato il fiume Enz e si trovano di fronte ai francesi, i quali in questa fase della guerra sembrano travolgere qualsiasi resistenza. Inseguita da un esercito francese di 100.000 uomini sotto il comando di Bonaparte, accolta da abitanti ostili, non avendo più fiducia nei suoi alleati, soffrendo per mancanza di approvvigionamenti e forzata ad agire fuori di tutte le condizioni di guerra previste, l'armata russa di 35.000 uomini sotto il comando di Kutuzov si ritirava affrettatamente giù per il Danubio, fermandosi là dove era accerchiata dal nemico e difendendosi con azioni di retroguardia solo quel tanto che era necessario per ritirarsi senza perdere i bagagli. Le truppe austriache che avevano evitato la capitolazione sotto Ulm e si erano unite a Kutuzov presso Braunau, ora si separarono dall'armata russa e Kutuzov fu abbandonato alle sue sole deboli forze già sfinite. A difendere ancora Vienna non c'era neppur da pensare. Il 28 ottobre Kutuzov con l'armata passò sulla sponda sinistra del Danubio e per la prima volta si fermò, dopo aver messo il Danubio fra sé e il grosso delle forze francesi. Il 30 egli attaccò la divisione Mortier che si trovava sulla riva sinistra del Danubio e la sconfisse. Per la prima volta dopo una ritirata di 2 settimane le truppe russe si fermarono e dopo la lotta non soltanto restarono padrone del campo di battaglia ma scacciarono i francesi. Nonostante che le truppe fossero lacere, esauste, indebolite di 1/3 per i soldati rimasti indietro, i feriti, i morti e i malati, nonostante che sull'altra parte del Danubio si fossero lasciati malati e feriti con una lettera di Kutuzov che li raccomandava all'umanità del nemico, nonostante che i grandi ospedali e le case di Krems, trasformate in ospedali militari, non potessero più accogliere tutti i malati e i feriti, nonostante tutto questo, la fermata a Krems e la vittoria su Mortier sollevarono notevolmente lo spirito delle truppe. In tutta l'armata e al quartier generale correvano le più liete notizie, quantunque non vere, sull'immaginario avvicinarsi di colonne russe, su chissà quale vittoria riportata dagli austriaci e sulla ritirata di Bonaparte spaventato. Il principe Andrei, durante la battaglia, si trovava presso il generale austriaco Schmidt, che fu ucciso in quello scontro. Il cavallo gli era stato ferito sotto ed egli stesso era stato leggermente scalfito a 1 braccio da una palla. In segno di particolare favore del comandante in capo, era stato mandato con la notizia di quella vittoria alla corte austriaca, che non si trovava più a Vienna, minacciata dalle truppe francesi, ma a Brünn. La notte della battaglia, agitato ma non stanco, il principe Andrei era stato mandato come corriere a Brünn. L'essere mandato come corriere, oltre alle ricompense, significava un gran passo verso la promozione. La notte era scura, stellata. La strada nereggiava fra il bianco della neve caduta alla vigilia, il giorno della battaglia. Ora riandando le impressioni della battaglia passata, ora immaginando con gioia l'impressione che avrebbe suscitata con la notizia della vittoria, ora ricordando gli addii del comandante in capo e dei compagni, il principe Andrei sobbalzava in una carrozza di posta e provava il sentimento di un uomo che ha lungamente atteso e finalmente raggiunge il principio della desiderata felicità. Dopo la scura notte stellata, spuntò un chiaro e lieto mattino. La neve si scioglieva al sole, i cavalli galoppavano rapidamente e a destra come a sinistra passavano nuovi boschi, campi, villaggi, vari di aspetto. A una delle stazioni egli oltrepassò un convoglio di feriti russi. Un ufficiale russo che guidava il convoglio, sdraiato sul primo carro, gridava qualcosa, insolentendo un soldato con parole volgari. Nei lunghi carri tedeschi sobbalzavano per la strada sassosa i feriti pallidi, fasciati e sudici. Il principe Andrei diede ordine di fermare e domandò a un soldato in quale scontro fosse stato ferito. «Ieri l'altro, sul Danubio», rispose il soldato. Il principe Andrei tirò fuori il borsellino e diede 3 monete d'oro al soldato. «Per tutti», aggiunse, rivolgendosi all'ufficiale che si era avvicinato. «Guarite, ragazzi», fece poi, rivolto ai soldati. «Ci sarà molto da fare ancora». Era già notte fatta quando il principe Andrei giunse a Brünn e si vide circondato da alte case, da lumi di botteghe, di finestre e di fanali, da belle carrozze che circolavano con rumore sul selciato e da tutta quell'atmosfera di una grande e animata città che ha sempre un fascino per il soldato dopo la vita del campo. Il principe Andrei, nonostante la rapida corsa e la notte insonne, andando verso il palazzo si sentiva ancora più animato che il giorno innanzi. Soltanto i suoi occhi luccicavano di uno splendore febbrile e i suoi pensieri si succedevano con una straordinaria rapidità e chiarezza. Di nuovo gli si presentarono al vivo le circostanze della battaglia, non più in modo vago, ma preciso, nell'esposizione succinta che mentalmente ne faceva all'imperatore Francesco. Al vivo gli si presentarono le domande occasionali che potevano essergli rivolte e le risposte che avrebbe potuto dare. L'aiutante di campo di servizio, venuto incontro al principe Andrei, lo pregò di aspettare e andò dal ministro della guerra. Dopo 5 minuti tornò e condusse il principe Andrei attraverso un corridoio nel gabinetto dove il ministro della guerra stava lavorando. Il senso di gioia del principe Andrei si era notevolmente affievolito quando egli si avvicinò alla porta del gabinetto ministeriale. Si sentì offeso. e questo sentimento di offesa si trasformò nello stesso istante, senza che egli stesso se ne avvedesse, in un sentimento di disprezzo. «Deve parer loro molto facile riportare la vittoria senza aver fiutato la polvere», pensò, ed entrò nel gabinetto del ministro della guerra. Questi, seduto a una grande tavola, per i primi 2 minuti non fece attenzione alla sua venuta. Aveva chinato la testa calva, con le tempie grigie, fra 2 candele di cera, e leggeva una carta, annotandola col lapis. Poi smosse le carte, accomodandole in colonna, alzò il capo. Aveva una testa intelligente e caratteristica, ma nello stesso momento in cui si rivolse al principe Andrei, sul suo viso comparve uno stupido e falso sorriso che non nascondeva la sua falsità, il sorriso di un uomo che riceve uno dopo l'altro molti sollecitatori. «Da parte del fedel maresciallo Kutuzov?» domandò, e prese il dispaccio e cominciò a leggerlo con una faccia triste. «Ah, Dio mio, Schmidt!» disse in tedesco. «Che disgrazia, che disgrazia! L'azione, dite voi, è stata decisiva, ma Mortier non è stato preso», e rifletté. «Sì, sono molto contento che abbiate portato buone notizie, benché la morte di Schmidt sia un caro prezzo per la vittoria. Sua maestà certamente vorrà vedervi, ma non oggi. Vi ringrazio, riposatevi. Domani trovatevi quando sua maestà tiene circolo dopo la rivista. Del resto ve lo farò sapere». E lo stupido sorriso, che era scomparso durante questo discorso, riapparve sul viso del ministro della guerra. «Arrivederci, vi ringrazio molto. Sua maestà l'imperatore certamente vorrà vedervi», ripeté, e inchinò il capo. Quando il principe Andrei uscì dal palazzo, sentì che tutto l'interesse e il giubilo destati in lui dalla vittoria erano passati e rimasti fra le mani indifferenti del ministro della guerra e del cortese aiutante di campo. Tutto il corso dei suoi pensieri si mutò in un istante. La battaglia gli si presentò come un ricordo lontano, nello spazio e nel tempo. Quando il principe Andrei andò nella stanza preparata per lui e si coricò nella biancheria pulita, fra piumini e caldi guanciali profumati, ebbe la sensazione che la battaglia della quale aveva portato l'annunzio fosse lontana da lui. L'alleanza prussiana, il tradimento dell'Austria, il nuovo trionfo di Bonaparte, l'imperatore Francesco che teneva circolo e la rivista e l'udienza imperiale dell'indomani occupavano la sua mente. Egli chiuse gli occhi. Ma nello stesso momento ai suoi orecchi rintronarono il cannoneggiamento, la fucileria, il rumore delle ruote della carrozza, ed ecco di nuovo i moschettieri che scendono in fila dalla montagna e i francesi che sparano, ed egli sente che il suo cuore sussulta e corre avanti a fianco di Schmidt e le palle fischiano allegramente intorno a lui, ed egli prova quel senso di decuplicata gioia di vivere che dall'infanzia non ha più provato. Si svegliò. «Sì, tutto questo è accaduto», disse, felice, sorridendo fra sé come un bambino, e si riaddormentò d'un sonno profondo e giovanile. L'imperatore Francesco lo ricevette in piedi in mezzo alla sala. Prima che cominciasse la conversazione, il principe Andrei fu colpito dall'aria imbarazzata dell'imperatore, che non sapeva che cosa dire. Ed era arrossito. «Dite, quando è cominciata la battaglia?» egli domandò in fretta. E il principe Andrei rispose. A questa domanda ne seguirono altre, ugualmente semplici, se Kutuzov stava bene, quanto tempo era che gli era partito da Krems, e simili. L'imperatore parlava con l'aria che tutto il suo scopo consistesse nel fare un dato numero di domande. Le risposte a queste domande, come era troppo evidente, non lo interessavano affatto. Il principe Andrei uscì e subito lo circondarono da tutte le parti i cortigiani. Da tutte le parti lo guardavano occhi benevoli e si udivano benevole parole. L'aiutante di campo del giorno innanzi gli fece dei rimproveri perché non era rimasto al palazzo e gli offrì la sua abitazione. Il ministro della guerra gli si avvicinò e si congratulò con lui per l'ordine di Maria Teresa di terza classe di cui l'imperatore l'aveva insignito. Il ciambellano dell'imperatrice lo invitò ad andare da sua maestà. Anche l'arciduchessa desiderava vederlo. Egli non sapeva a chi rispondere e per qualche momento si raccolse in se stesso. In quella stessa notte, dopo essersi congedato dal ministro della guerra, Balkonski partì per raggiungere l'armata, non sapendo lui stesso dove l'avrebbe trovata e temendo di essere fatto prigioniero dai francesi sulla strada di Krems. La strada era talmente ingombra di carri che era impossibile procedere in carrozza. Essendosi fatto dare un cavallo e un soldato dal comandante dei cosacchi, il principe Andrei, affamato e stanco, girando attorno ai convogli, si mise a cercare il comandante in capo e la sua vettura. Durante il viaggio gli erano giunte le voci peggiori sulla situazione dell'armata e la vista dell'armata che fuggiva in disordine confermava queste voci. «E se non resta più che morire?» pensava. «Ebbene, se sarà necessario, saprò morire non peggio degli altri». Il principe Andrei guardava con disprezzo quell'infinità di distaccamenti, di carri, di parchi, di artiglierie che si mescolavano, e di nuovo carri, carri e carri, di tutte le forme possibili, che si sorpassavano l'un l'altro e in tre e quattro file sbarravano la strada fangosa. Da tutte le parti, di dietro e davanti, dovunque giungeva l'udito, si sentivano rumori di ruote, strepito di cassoni, di carri, di affusti di cannone, calpestio di cavalli, colpi di frusta, grida di incitamento, parolacce di soldati, di attendenti e di ufficiali. Sui margini della strada si vedevano senza posa ora cavalli caduti, quali scuoiati e quali no, ora carri fracassati, presso i quali erano seduti nell'attesa di chissà che cosa dei soldati solitari, ora soldati staccatisi dai loro reparti che in folla si dirigevano ai villaggi vicini o che si tiravano dietro dai villaggi polli, agnelli, fieno, sacchi pieni di roba. Le fruste schioccavano, gli zoccoli dei cavalli scivolavano, le tirelle si spezzavano, i petti si schiantavano dal gran gridare. Gli ufficiali che dirigevano il movimento passavano in mezzo ai carri, ora indietro, ora avanti. Le loro voci si udivano appena nel frastuono generale e dai loro visi si vedeva che essi disperavano della possibilità di arrestare tutto quel disordine. Il principe Andrei stava proprio davanti a Kutuzov, ma dall'espressione dell'unico occhio intatto del comandante in capo si vedeva che i pensieri e i fastidi lo occupavano così fortemente da velargli quasi la vista. Egli guardava fisso il viso del suo aiutante di campo e non lo riconosceva. «Ebbene, è finito», disse rivolgendosi a Kozlovsky. «Fra un momento, eccellenza». Il generale Bagration, non alto, con un viso duro e immobile di tipo orientale, magro, non vecchio ancora, venne fuori dietro al comandante in capo. Il viso di Kutuzov improvvisamente si raddolcì e le lacrime gli spuntarono negli occhi. Egli attirò a sé con la sinistra Bagration e con la destra, nella quale portava un anello, con un gesto che si vedeva abituale, gli fece il segno della croce e gli offrì la sua guancia rigonfia. Ma invece Bagration lo baciò sul collo. «Cristo sia con te», ripeté Kutuzov, e si avviò verso la carrozza. «Sali con me», disse a Balkonski. «Eccellenza, io vorrei essere utile qui. Permettete che io rimanga nel corpo del principe Bagration». «Sali», disse Kutuzov, e accorgendosi che Balkonski indugiava, «anch'io ho bisogno di buoni ufficiali, anch'io». Essi salirono in carrozza e procedettero in silenzio per qualche minuto. «Ci sarà ancora molto, molto da fare», disse Kutuzov, con un'espressione senile di perspicacia, come se avesse capito tutto ciò che accadeva nell'anima di Balkonski. «Se domani tornerà anche solo una decima parte degli uomini del suo corpo, ringrazierò Dio», aggiunse Kutuzov, come parlando a se stesso. Il principe Andrei guardò Kutuzov e involontariamente gli saltarono agli occhi, alla distanza di mezzo braccio, le rughe, accuratamente lavate, della cicatrice sulla tempia di Kutuzov, dove una palla gli aveva trapassato la testa, e il suo occhio spento. «Sì, egli ha il diritto di parlare con tanta tranquillità della perdita di questa gente», pensò Balkonski. «Per questo vi prego di destinarmi a quel corpo», disse egli. Kutuzov non rispose. Pareva che avesse già dimenticato ciò che aveva detto, e se ne stava tutto pensieroso. Dopo 5 minuti, Dondolando sulle soffici molle della carrozza, Kutuzov si rivolse al principe Andrei. Sul suo viso non c'era traccia di agitazione. Con fine ironia interrogò il principe Andrei sui particolari del suo incontro con l'imperatore, sulle opinioni sentite a corte a proposito dello scontro di Krems e su alcune signore di comune conoscenza. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.